l'agente Pardo per la radio sono come Mogol e Battisti per le canzoni. Solo che Mogol e Battisti c'erano sempre tutti e due, no? Quindi Pardo non c'è mai. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sempre Quadrado, sempre lì, Barzagli va al cross con il destro a cercare il colpo di testa ed è 1-0 Juve! Barata! Barata! Alla quinta gara consecutiva segna in Champions! Magia di Dybala, poi palla buona per Zazza, Zazza, fino in fondo Zazza, c'è gol su di lui, Zazza, Zazza, Zazza! L'orgoglio per me è fare quello che ha fatto una leggenda del calcio mondiale e della Juventus. Sono felice, però ancora posso fare più gol e non devo né avere il pensiero di che ha fatto 5 gol da seguito. Cerco di dimenticarlo. Quella partita è stata oggi, domenica sarà un'altra importantissima per noi che non abbiamo cominciato nel migliore modo possibile. Sicuramente l'aria che è tirata in questo periodo non è stata positiva, qui si è abituati a vincere e io l'ho notato, l'ho capito subito questo. Adesso domenica c'è una partita importante, ancora allo Juventus Stadium, perché il campionato non è finito, anzi è appena iniziato. Come abbiamo perso dei punti in queste partite possiamo subito recuperare. Turrini sbaglia, Pardo c'è, oggi non si vede, non si sente, l'abbiamo sentito raccontare i gol della Juventus prima, ma l'abbiamo mandato a Roma, nel cuore della Roma, per scoprire i misteri di quella squadra, di cui poi peraltro parleremo. Allora, ovviamente si parte dal bianconero, ma sarà una puntata, non mollate la radio, non cambiate stazione neanche per un attimo, perché oggi abbiamo tutti i colori possibili, tutti i colori del mondo mescolati insieme. Partiamo dal bianconero, poi andremo sul rosso-nero per Mr. B, Berlusconi, una pennellata di nero-azzurro, poi del nero-verde e poi altro ancora. Intanto partiamo dalla Juventus, che in Coppa mette lo smoking, non si veste normalmente, non si veste casual, stracciata, in bermuda, in canottiera, come succede in campionato. È un'altra squadra. In parte, guardate, ditemelo voi se sbaglio, se ho le traveggole. 8-0-0-24-0-0-24 mi ricorda un po' come andamento, ma solo come andamento, il Milan di Ancelotti. Per altre strade il Milan di Ancelotti mollava il campionato quasi dichiaratamente, arrivava ad ottobre, ormai tagliato fuori dai giri a fine ottobre, quei pareggi interni con squadre di bassa classifica e le altre che volavano più 8, più 9, più 10, e quindi lo scudetto non ci interessa, perché il nostro stagno, il nostro habitat, il nostro lago, il nostro mare è quello europeo. La Juventus sta un po' facendo la stessa cosa, magari, anzi certamente in modo involontario, però insomma, ieri abbiamo visto un'altra squadra complice, ed è fin troppo facile notarlo, il rientro di uno di quelli che dovrebbe essere uno dei perni del centrocampo titolare, cioè Sami Khedira, che ieri ha giocato fino al 35esimo del secondo tempo, da professore qual è. Ho l'impressione anche, manca ancora Marchisio, naturalmente, fuori ancora Lichtsteiner. Ieri abbiamo visto una grande partita di Quadrado e non è la prima. C'è poi Morata, che avete sentito anche in quelle dichiarazioni, insomma, ieri ha tagliato un traguardo parziale ma storico per gli juventini, cioè 5 gol consecutivi, ha raggiunto in questa specialissima classifica Alessandro Del Piero. Io ho l'impressione che, e ve la butto lì, così come la butterò lì ai nostri ospiti, ho l'impressione che Pogba stia risentendo dell'assenza di Marchisio, di Khedira. Anche ieri gara in chiaroscuro, gara piuttosto grigia, probabilmente non ha ancora la personalità e il carisma per prendersi in mano quel centrocampo. Marco da Siracusa già in linea, però io vi faccio sentire un altro Allegri. Ma direi che i ragazzi sono stati bravi, credo che non era facile, perché il Siviglia veniva da una vittoria netta contro il Borussia, Noi veniamo da un periodo difficile, però la serenità con cui hanno giocato la partita direi è stata forte, è stata alta, e direi che hanno meritato questa vittoria, giocando sia difensivamente che offensivamente veramente una partita molto piacevole. Con Allegri abbiamo preso una dimensione più europea, e poi ricordiamoci che a parte l'anno scorso le partenze di Allegri in campionato sono sempre state nette, scrive Paolo da Bergamo. Allora, ieri Allegri in croce così, no? Crocifisso da tutti, era tornato l'allenatore poco gradito che era quando ha preso l'incarico, più o meno. Molti tifosi juventini ne chiedevano addirittura la testa in maniera per me incomprensibile. Adesso torna ad essere, vabbè, Allegri ha dato la dimensione europea. Allegri di solito in campionato parte piano ma arriva forte, dunque adesso la luce sulla Juventus è improvvisamente cambiata, bellissima di notte. Chi ha segnato invece il primo gol della sua carriera in Champions League? Simone Zaza. Ero appena entrato e ho cercato di sfruttare al meglio l'occasione che sapevamo che c'erano degli spazi all'ultimo, e è andata bene. Ci vuole anche un po' di fortuna, perché devo ringraziare, il mio gol è soprattutto merito di Alvaro e soprattutto di Paolo nell'occasione del gol, che hanno corso tutta la partita, perciò se i difensori erano stanchi era grazie a loro. No, parole molto diverse rispetto a quelle di Florenzi del giorno prima, ma è ovviamente un risultato diverso, è ovviamente un momento diverso quello bianconero, almeno visto ieri sera, rispetto a quello giallorosso di cui poi torneremo a parlare. Giuseppe Padova e Marco da Siracusa, prima c'è Marco, buongiorno. No, non c'è Marco, cascato. Allora c'è Giuseppe. Giuseppe, c'è Giuseppe, ciao. Ciao, ciao. Allora, non ho domande da fare. Mi permetto, da tifoso juventino come sono, di fare delle considerazioni con un cuore totalmente bianco-nero. La Juve di ieri sera è la Juve che ci ha distinto a livello nazionale con la personalità di sempre. E forse questo è caratterizzato molto anche dalle persone che avevamo in campo, i giocatori che avevamo in campo. Tu giustamente prima parlavi di un Pogba con delle difficoltà, non ancora il Pogba che noi ci aspettavamo, ma è già un Pogba diverso, con a fianco giocatori del peso di Khedira. Ma Giuseppe, facciamo insieme un ragionamento. Allora, Pogba l'anno scorso aveva dietro Pirlo, anche se ad intermittenza dati gli infortuni, e aveva Vidal, cioè uno della personalità straripante, quindi lui poteva, tra molte virgolette, limitarsi a fare talvolta il fenomeno. Adesso si trova in un centrocampo in cui manca una guida, manca una leadership. Si è trovato in un centrocampo così perché Khedira è rientrato ora, Marchisio non ha mai giocato in questa stagione, e la mia sensazione è che non abbia ancora la garra, la personalità per essere leader di quel centrocampo. Forse è stato caricato anche di eccessive responsabilità. Sbaglio? No, sono d'accordissimo. Se ti dico anche, aggiungo una cosa. La Juve, ahimè, spesso si usa questo termine, manca di fame, no? E la manca di fame probabilmente nel campionato. Io sono convinto che con il tempo riusciremo a recuperare la strada perduta, magari non raggiungendo l'obiettivo primario, però avvicinandoci. La Juve di Champions è una Juve di personalità, è una Juve che va in campo con una determinazione unica. Ieri Khedira, giocatore che l'anno scorso non so quanti minuti ha fatto. Vabbè, ha giocato, è uscito al 35esimo del secondo tempo. Ma non solo, batti becco con Bonucci rispetto al fatto, mettiti una posizione rispetto all'altra, e risposta diretta fa comprendere la quantità e il peso di un giocatore di questo tipo. Cioè, la Juve ieri ha giocato in qualche squadretta che ha vinto qualcosa, bravissimo. Real Madrid, una grande nazionale tedesca. E concludo, dopo non porto via spazio agli altri, per dirti che mi auguro, perché io sono tra quei tifosi juventini, che mi auguro che la Juve si possa riprendere in primis per una persona, che si chiama Massimiliano Allegri. Io sono convinto che Massimiliano Allegri un po' di suo lo ha messo, senza togliere nulla a Conte, senza togliere nulla alla dirigenza. Ha messo molto di suo, ma infatti io trovavo incomprensibili i tifosi che ne chiedevano la testa fino a ieri sera alle 8, insomma. Sono d'accordo su tutto, salvo sul fatto che l'intensità non è un interruttore che si accende e si spegne, quindi non è possibile che ci sia in Coppa e manchi totalmente in campionato, quindi qualche altra ragione ci deve essere. 800240024, poi arriveranno gli ospiti, Pardo forse più tardi, traffico, poi torniamo. Il signor Pardo non è al momento raggiungibile. Tutti convocati. Convocati. Io continuo con grandissimo piacere a parlare con gli ascoltatori, anche e soprattutto oggi. Pasquale da Foggia per primo, mi confermate? Buon pomeriggio. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Un attimo solo. Stavo dicendo, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiorre in redazione, ancora non l'avevo sottolineato. Adesso mi dica. Pronto? Eccomi, sono qui. Dica. Io chiamo da Gargano. Ah, ci conosciamo. Ci conosciamo. Allora, voglio fare due domande. Prego. La prima sulla Juventus. Ho visto una grande Juve e voglio sapere se, visto come gioca in Champions League, ce la farà anche in campionato ad arrivare agli stessi punti che c'ha l'Inter. E poi la seconda è sul Milan. Sì. Voglio sapere, il Milan, visto la brutta sconfitta che ha fatto col Genoa, sì, in questi Nettuno infrasettimanale, ce la farà a ribattare proprio contro il Napoli? Due domande non semplici. Allora, la Juventus arriverà ad avere gli stessi punti che ha l'Inter? Non nell'immediato, naturalmente. La Juventus deve ritrovarsi pian piano in campionato, lì deve ritrovare quella strada che invece in Europa sembra conoscere benissimo. Sarà estremamente importante il prossimo ciclo di partite. Sappiamo che c'è di mezzo una sosta per la nazionale che viene a rompere un po' le uova alla continuità interessantissima di questo campionato. Poi se arriverà ad avere gli stessi punti dell'Inter lo scopriremo, ma io credo che salirà anche in campionato. Quanto al Milan con il Napoli si gioca molto, è stata una settimana, poi parliamo anche del fronte societario, abbastanza tribolata e travagliata, e non solo sul fronte societario, c'è stata la strigliata di Galliani ai giocatori. Mi aspetto comunque un Milan con una faccia diversa contro il Napoli, poi come vada non lo so, perché il Napoli in questo momento sembra una macchina non perfetta ma sulla via della perfezione. Che bello avere Alessio Tacchinardi, ciao Ale. Ciao, un saluto a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Ciao Alessio, ti butto due considerazioni sulla Juventus. Prima ho detto, esagerando, che assomigli un po' al Milan di Ancelotti, che mollava in campionato per vie diverse, perché non gli interessava dichiaratamente, e in Coppa metteva un altro vestito. Sembra una cosa strana. No, però è successo anche a me. È successo anche a me dal 94-95, quando abbiamo vinto lo Scudetto, abbiamo vinto la Coppa Italia al primo anno, il secondo anno quando abbiamo preso la... abbiamo vinto la Coppa dei Campioni a Roma contro l'Ajax, era una motivazione diversa, c'era un'atmosfera diversa. Io penso che la Juve l'anno scorso, avendo comunque assaporato il bello di questa Champions, arrivando fino in fondo, poi perdendo purtroppo la finale, però insomma ha visto che questa manifestazione dà qualcosa in più, dà una carica in più, dà qualcosa di particolare, e quindi penso che sia anche normale e fisiologico che, mentre in campionato, avendo vinto 4 campionati e ogni trasferta devi sempre stare lì sul pezzo, devi sempre andare a 200 all'ora, sicuramente la Champions è una atmosfera diversa, con un giocatore e squadre blasonate diverse, sì, e quindi alza l'asticella, però sicuramente la Juve tornerà protagonista anche in Italia. Sono d'accordo, ho altre due domande per te. La prima è questa: tu sei stato un grande centrocampista e puoi spiegarci meglio di tutti cosa voglia dire avere Khedira e Marchisio, che ancora non c'è, oppure non averli? Allora, io penso di fare un esempio molto molto semplice: la prestazione di Pogba ieri sera. Allora, Pogba ieri è stato il peggiore in campo, perdendo, dati alla mano, io ho commentato la partita, 10 passaggi consecutivi, 10 passaggi, insomma 10 contrasti persi. È stato un giocatore passivo ieri nel campo, eppure cos'è la sensazione? Però cos'è la cosa nuova di questo Juve? Che però ha dei pilastri vicino. Bravissimo, cioè Khedira ha dato proprio la dimostrazione che non è più Pogba. L'anno scorso era uguale a Tevez, l'anno scorso nascondeva magari le prestazioni magari anche opache a volte di Pogba, ma è anche naturale, è anche fisiologico. Poi se Pogba sale di livello diventa un giocatore straordinario, diciamo tutti di diventare un leader. Pogba è un grande giocatore, però ha bisogno, si deve nutrire di giocatori vicino con grande spessore, con grande possibilità, giocatori solidi. Ieri Khedira ha dato proprio la dimostrazione di essere un giocatore solido, ma non a caso è un campione del mondo, non certo, nasce campione del mondo. Mamma mia, mi vengono i brividi, sono le cose che ho detto io, ma com'è possibile? Sono le cose che ho detto no, io. No, ma perché Pogba mi sembra che non abbia ancora la personalità per prendersi in mano il centrocampo della Juve, quindi aveva Vidal, aveva Pirlo, adesso ha bisogno di qualcuno che lo faccia sentire tranquillo e di fare ogni tanto quando gli viene il fenomeno, no? No, e soprattutto è vero che è stata una mossa anche di marketing, ma dandogli la maglia numero 10 gli hai messo ulteriore pressione a questo ragazzo. Quindi se Pogba lo vedevi sempre come un buon giocatore, poi gli ha dato la 10, deve vincere tutte le partite lui, deve fare due gol lui, ma non può. Anche l'anno scorso ha fatto degli alti e bassi, il problema è così, perché nei bassi c'era la solidità di Tevez, certo, c'era la solidità di Vidal, e insomma oggi non c'erano questi. Ieri sera Khedira in 70 minuti ha dato proprio dimostrazione di essere, potrebbe diventare ovviamente una colonna, chiaro, chiaro, importante della squadra. Diventiamoci Marchisio e allora dopo salirà di livello sicuramente anche Pogba. Sono d'accordissimo. Un'ultima cosa, Morata sta attraversando il fiume che porta dall'essere un grande giocatore all'essere un crack. Sono d'accordo, e il fiume e la linea sottile è quella che oggi non c'ha Zaza e deve arrivargli nella testa Zaza, cioè quella della cattiveria e di voler essere veramente decisivo sempre. Zaza è un grande giocatore, sopra non parla di Morata, però per dire oggi mi sembra che abbia ancora grandi e enormi potenzialità. Quello che però ha fatto Morata l'anno scorso, ha preso legnate, è stato fuori, si è dato una sveglia, un giocatore importante, è diventato cattivo, sì, nel percorrere dei mesi, e oggi un giocatore secondo me è cattivo, affamato e soprattutto ambizioso. Sì, sì, penso che quella sia la medicina importante per un giocatore. Adesso secondo me è dall'altra parte, si sta consolidando perché riesce a far gol in tutte le maniere, ma anche la mentalità del grande giocatore. Sono d'accordo, glielo leggi in faccia. Alessio, grazie. Grazie, ciao, davvero. Saluto, ciao Alessio Tacchinardi, grazie, a prestissimo. Ah, Luca Valdiserri, Corriere della Sera, ciao Luca. Eccomi qua, buongiorno a tutti. Anche qui ho tre domande per te come Ligabue. Non sono chi prende l'Inter, dove mi porti e poi di soprattutto lunghe o corte? Dai risposte corte e cattive. Perfetto. Allora, Garcia al centro della crisi, qualcosa si è rotto e le parole di Florenzi me lo confermano. Garcia al centro della crisi dalla fine dello scorso campionato. Le parole di Florenzi sono quello che si vogliono sentire dire i tifosi, per cui non le vedrei come una ribellione, un ammutinamento contro Garcia, ma come un tentativo un po' di parare il colpo. Il problema con Garcia non sono i giocatori, sì, è un rapporto che si è deteriorato con gli altri dirigenti. Quindi quella fiducia sotto condizione con cui aveva iniziato il campionato, con cui aveva iniziato la stagione, sta cominciando a mostrare le sue crepe. Seconda domanda. È una fiducia legata a tantissimi soldi che la Roma dovrebbe spendere per sostituire Garcia. Sì, certo, questo lo sappiamo, contratto lungo e pesante. La Roma di Garcia si è persa, lo sappiamo tutti, nella notte dell'1-7 dell'anno scorso. Il secondo posto finale non mi fa cambiare idea, perché quello è stato conquistato già da un'altra Roma. Più o meno è così. C'è una Roma prima del Bayern Monaco e una Roma dopo il Bayern Monaco. Ma non è tutta colpa di Garcia. Ultima domanda. A Palermo per vivere o sportivamente morire? O sportivamente cambiare? No, è troppo presto. Siamo all'inizio di stagione. Ci vorrebbe un tracollo a Palermo per mettere la situazione come la dici tu, cioè vivere o morire. Io penso che per tanti motivi la trasferta di Palermo non sarà quella che mette a posto le cose, sì, ma neanche non è una vincendo trasferta, ma non vincendo. È una trasferta impossibile, no, però adesso bisogna salvare il salvabile, non bisogna fare programmi a lunga gittata, bisogna arrivare alla sosta, che a Roma è sempre più lunga che dalle altre parti, perché sì, naturalmente sì, qua sì. Sì, parla sul giorno di calcio, e bisogna arrivare con una vittoria, e poi la Champions è compromessa ma non è persa, no, credo che la Roma, per cui sai, da un lato ci sono tanti motivi di analisi, dall'altro bisogna anche farli in maniera positiva, in maniera propositiva, altrimenti si finisce veramente nell'imbuto della polemica ad appassanutata. Luca, ti ringrazio, grazie, a presto. Luca. Ciao Luca Valdiserri. Ci fermiamo per la borsa. Piero da Trani, aspettini, sentiamo le informazioni dei mercati finanziari, poi torniamo di nuovo con gli ascoltatori e con altri colori di questo pomeriggio sportivo. E adesso tutte le notizie dai mercati, andiamo a vedere se oggi è giorno di orso o giorno di toro. Borsa, seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco, per i tuoi risparmi investi con noi. Vi presenta. Che dire, arieccici. Tutti convocati. E riprendiamo con i convocati subito. Piero da Trani ci aspetta da un po'. Vi do subito la parola. Vi passo subito la palla. Piero, buongiorno. Sì. buongiorno. Abbiamo sentito anche la borsa di Barisoni e adesso possiamo parlare di, tornare a parlare di calcio o di borsa, quello che vuole. Sì, no, di calcio. Meglio, di calcio. Anche per me. Il mio lavoro mi occupo di borse, comunque va bene. No, io e lei parliamo di calcio, che è meglio. Eccoci, due considerazioni. Una sulla Juve e una sull'Inter, se possibile. Sulla Juve, più che altro col paragone che è stato fatto con il Milan, di Carlo Ancelotti, perché così è stato detto che dichiaratamente e volontariamente loro abbandonavano il campionato, sì, e la Coppa Italia per ottobre. Lo dichiaravano proprio. Cioè, il campionato non ci interessa. Dopo che si rendevano conto che non potevano più andare avanti, erano dichiarazioni di facciata. Cioè, Ancelotti è difficile dimenticare quando praticamente non riusciva ad andare avanti e diceva no, non è il nostro obiettivo, non riusciva ad andare avanti. Ma questo succedeva verso ottobre, quindi molto presto. Sì, ma perché si rendeva conto che stava già 15 punti sotto. Appunto. Invece sull'Inter, se era possibile, io credo che la sconfitta di domenica, meritata, sia stata però alterata e, diciamo, tra virgolette, drogata un attimo dalla prestazione di un portiere che secondo me non è assolutamente da Inter, perché non è la prima volta che fa degli interventi degenerati come quello di domenica, in cui il giocatore stava andando fuori, poteva tranquillamente lasciarlo andare ed è andato praticamente a regalargli un rigore. Ma anche sul secondo gol, su altri interventi, lei ha ragione sul fatto che sono stati degli episodi determinanti, peraltro accaduti all'alba della partita. Su questo ha ragione. Io credo che sia un po' ingeneroso nei confronti di Handanovic, che secondo me resta un eccellente portiere. Poi ai portieri, Buffon compreso, capita di avere la notte sbagliata, capita di avere la notte in cui fai solo frittate, questo succede, ma il valore assoluto di Handanovic secondo me non è quello di un portiere scarso, è quello di un portiere eccellente a livello europeo, tanto che insomma di mercato ne avrebbe. Secondo me, e nessuno me lo toglie dalla testa, la sconfitta dell'Inter è stata, per usare la sua parola, drogata anche dal cambio di modulo di Mancini. Di questo sono certo. Poi Mancini ha detto: vabbè, a domanda ha risposto, stavo perdendo 3-0, che avevo da fare? Però lui aveva deciso comunque quella difesa 3 prima ancora di iniziare la partita e prima ancora che si facesse male Jovetic. E in una squadra embrionale come è in questo momento l'Inter, questo ti toglie certezza, punti di riferimento, ti toglie qualcosa di questo tipo, qualcosa che stai costruendo, per il quale stai lavorando giorno dopo giorno. Secondo me ha dato in questo modo un segnale non positivo alla squadra. Poi è chiaro che in questo non c'è scritto che devi prendere gol dopo due minuti e essere sotto 3-0 al trentesimo. Ecco. Giuseppe, Vicenza, buongiorno. Ciao Carlo, ciao. Volevo chiederti una cosa veloce su Pogba. A tuo avviso Pogba, facendo un parallelo anche con l'NBA, con i suoi grandi tifoso, potrebbe essere un LeBron, quindi un grande primo violino in divenire in 7-8 anni o anche meno, oppure un Kobe che ha bisogno di uno Shaq vicino per vincere subito? Io penso la seconda che hai detto. Poi hai citato due giocatori che insomma... che hanno fatto la storia e che stanno facendo la storia di questo sport. Credo più un Kobe che ha avuto bisogno di Shaquille O'Neal per vincere all'inizio, per vincere i suoi primi titoli. Poi ci è riuscito anche da solo, quindi si è smarcato da Shaquille O'Neal ed è riuscito a vincere anche da solo. Io vedo Pogba in questa direzione, cioè, ma ne parlavo anche prima con Tacchinardi. È un giocatore giovanissimo, è un giocatore che ha un talento sconfinato, però è un giocatore che non ha ancora quella personalità che serve per dire ok, non ci sono che dire, non c'è più Vidal, non ho Marchisio, ragazzi, palla a me, quel centrocampo lì lo custodisco io. Ecco, non ha ancora questa caratteristica, probabilmente riuscirà con il tempo e con i compagni giusti ad affinarla. Che bello fare una digressione con il mio amico Guido Meda. Ciao Guido. Ciao Carlo, buongiorno. Come stai? A tutti. Molto bene, grazie. Molto bene lì a Sky, ai piani altissimi di Sky. Ai piani normali, quelli giusti, diciamo, dove sto bene. Certo, dove stai bene che sei un califfo. Stai partendo fai la valigia per il Giappone. Faccio la valigia per il Giappone, portati, sono tornato dalle registrazioni di Top Gear, c'è la Formula 1, ce n'è mille, però... Ce n'è mille. va tutto molto bene. 11 ottobre, portati l'impermeabile, magari piove, meteo imprevedibile, quart'ultima tappa, duello finale. È tosta adesso. Adesso è tosta, direi che è tosta per le quattro gare restanti che mancano, nel senso che è veramente molto difficile tanto stabilire, cioè la statistica può aiutare, ma non è detto che sia un verdetto certo su quello che può essere da qui in avanti. Diciamo che Rossi e Lorenzo, come attitudine ad affrontare le piste che mancano e capacità di fare il risultato, sono più o meno pari. Forse con una piccola prevalenza per Lorenzo, nel senso che in questo periodo è coriaceo, robusto e molto molto veloce. Valentino, che è riuscito a tenere la testa del mondiale, ci ha messo veramente tanta esperienza, tanta intelligenza e anche un pizzico di fortuna, forse in qualche occasione quando gli serviva dell'acqua, serve sempre. E adesso deve gestire questo vantaggio che è piuttosto risicato su Lorenzo, che abbiamo visto nell'ultima gara ad Aragon, no? Sì. Però è anche vero che ad Aragon non ci aspettavamo che Rossi potesse fare una gara del genere arrivando sul podio. Sì, sì. No, questo certamente. Io mi domando se è stata sufficiente una cena pagata o ci è voluto qualcos'altro da parte di Lorenzo e verso Pedrosa. Io sono sempre abbastanza critico e cattivo forse nei confronti di Pedrosa. Ogni tanto si ricorda di essere si dimentica di essere un magnifico perdente. Diciamo che questo hai detto bene quello che in molti pensano di lui, l'hai detto in maniera raffinata, è un magnifico, la sua storia dice che è stato un magnifico vincente all'inizio della carriera con le cilindrate piccole, secondo me potrebbe essere un magnifico vincente se avesse 15 kg di peso in più, 10 cm in più d'altezza e un fisico molto robusto, perché tutto sommato lui di colpo ha cominciato a pagare la crescita della cilindrata. Queste moto sono moto molto, molto fisiche, sì, dove le leve lunghe contano e aiutano, o le leve potenti, dei normo dotati, diciamo. Lui effettivamente è cortino e diciamo che non c'è nella storia recente della MotoGP un brevilineo, così brevilineo come lui, più bravo di lui, ecco, per cui magnifico perdente, io ci vado con i piedi, sì, di piombo, sì. È stato protagonista di una gara inaspettata, lui non è quest'anno per nulla contento della Honda che ha. Non è, sono rarissime non è occasioni in cui la Honda funziona e lui le va dietro. Diciamo che è stato curioso e interessante vedere il Pedrosa più combattivo della storia di Pedrosa stesso, proprio nella gara di Aragon, cioè lui nel corpo a corpo con Rossi tendenzialmente è spacciato di norma, sì, no? Sì, sì. Cioè non è mai successo che lui stesse davanti a Pedrosa in un corpo a corpo, anzi era arrendevole. Lì è venuto fuori il miglior Pedrosa di sempre. Anche se Guido, io l'ho registrato quel frammento di gara, ogni tanto riguardo con te, Capirossi, che impazzite per quel duello, e anch'io sono impazzito per quel duello, però posso dirti, tu magari dalla pista hai avuto un'impressione diversa, io non ho mai avuto l'impressione che Rossi potesse davvero passarlo, posso dirti. Ma non dici una cosa sbagliata, da Rossi ti aspetti sempre il miracolo, che in questo caso non c'è stato. Io ho avuto una sensazione, per la verità c'è stata un'occasione in cui Rossi è riuscito a sorpassarlo e a prendere l'interno, il punto di corda della curva. Il problema di Rossi grosso ad Aragon era che comunque Pedrosa, poi in realtà Pedrosa gli ha risposto subito e si è rimesso davanti, ma anche se avesse aspettato l'ultimo rettilineo avrebbe vinto Pedrosa quel duello lì, perché aveva un motore infinitamente più potente di quello di Rossi, o perché Rossi aveva un motore troppo moscio rispetto allo standard del motore che dovrebbe avere la Yamaha, per cui non era facile. Comunque ha tentato anche il colpo del matto, ma mi è piaciuto quello, diciamo, di Pedrosa, che nonostante un motore che comunque lo teneva al sicuro sul rettilineo, perché avrebbe potuto ripassarlo, ha combattuto in curva a ogni curva. Un'ultima cosa, Guido, la notizia migliore è che Marquez è umano adesso, non andiamo più lì a guardarlo come l'extraterrestre bambino. Sono d'accordo con te, il bilancio del 2015 ce l'ha restituito umano, forse ci è voluta un po' la complicità, diciamo, negativa della Honda, che nella prima parte della stagione gli ha messo nelle mani una moto che con un minimo di presunzione giapponese loro pensavano fosse enormemente migliorata, e ci sono volute 5-6 gare perché tornassero indietro restituendo a Marquez il calaio del 2014 che era infinitamente meglio. Ciò detto, probabilmente Marquez, se avesse una moto all'altezza delle sue capacità, continueremmo a dire che è disumano, nel senso che quando la imbrocca e riesce a fare i filotti lunghi come accade l'anno scorso. Quest'anno diciamo che, avendo tendenzialmente sempre un po' poco da perdere perché è partito in svantaggio, ha dimostrato, guarda, faccio breve, è la sottile differenza tra la foga, che è quella di Marquez, di uno che non ha niente da perdere, si butta in curva 10 km all'ora più del dovuto, e la sensibilità, che alcuni chiamano fragilità psicologica, di Lorenzo, che invece è uno vulnerabile ai condizionamenti esterni. Marquez è un altro come Rossi, entra in autodromo, costruisce quattro muri intorno a sé. Lorenzo no, Lorenzo si porta in pista i grattacapi, i fastidi dell'avversario che magari il giorno prima è stato più simpatico alla stampa di lui. Cioè Marino è uno sensibile da questo punto di vista, però quando è perfetto, Marquez è umano, ma è un umano con un potenziale sportivo straordinario. Quando è perfetto è perfetto, perché tu eravamo insieme un paio d'anni fa a Misano, quando Rossi disse: questo fa le prove perfette, parte perfetto, fa i primi due giri perfetti, ammazza tutti e io non so come fa. Te lo ricordo. È rimasto, secondo me è rimasto così. Cioè, sì, se la Honda lavora nel verso giusto, l'anno prossimo lo ritroviamo come era. Sì. Mi verrebbe da dire che però stiamo assistendo ad un prodigio sportivo, che è quello di Rossi, di testa al mondiale a quattro gare dalla fine, che era, non dico impensabile. Poi sai che io sono uno fiducioso tendenzialmente nei confronti di Rossi, io l'ho difeso anche nei momenti buissimi, e il fatto di ritrovarlo lì è una, in qualche modo, un po' una vittoria anche personale, chiaro, in cui credevo. Però mi sembra veramente straordinario, cioè sono 20 anni che corre, ha attraversato almeno 3 o 4 generazioni di motociclisti differenti e continua ad essere lì, e dove non arriva più probabilmente con la velocità pura e con quel talento enorme che ha, ma che l'età un pochino imbriglia, lui riesce a sfruttare esperienza e intelligenza, strategia e freddezza, per cui è un bel esempio. Porca miseria. Grazie Guido, a presto. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie Guido. Ciao. Meda. La grazie, voce, grazie. The Voice del Moto Mondiale. A proposito di Voices, prima del traffico vi faccio sentire cosa ha detto Berlusconi a proposito della giornata di ieri, di questa lunga trattativa con Mr. B, e subito dopo il traffico arriva Marco Beninazzo, il professor Beninazzo, e vi spiega tutto. Abbiamo avuto un incontro con Mr. B e la cosa continua, con naturalmente molte cose da mettere a punto anche per la commercializzazione del marchio fuori dall'Italia, e quindi io penso che questa cosa si concretizzi presto e sarà una bella cosa per il Milan. Tutti convocati. Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta convocati. Puntata piena di contenuti variopinta quella di oggi, e in questa tavolozza di colori non poteva mancare il rosso e il nero, perché c'è il professor Marco Beninazzo che ci deve chiudere quest'ultima tappa delle BIADI, cioè le Olimpiadi per comprare il Milan. Professor Beninazzo, buongiorno. Buongiorno Carlo. Non a caso dico professor Beninazzo perché è in partenza per Pisa. Per Pisa a tenere lezioni di Goal Economy. C'è questo tour nelle università, la prima tappa è Pisa stasera alle 19 al Teatro Lux. Leggi brani del tuo libro? No, faremo una chiacchierata su quello che il calcio, dove sta andando, se per esempio il calcio milanese va... Tanto ti chiedo, la prima domanda sarà: mi scusi professore, ma Mr. B compra il Milan? Compra il Milan, no? Ieri ero al rettorato a Milano, a Politecnico, per la firma di questa convenzione tra FIGC e... appunto Politecnico di Milano, per progettare nuovi studi, che hanno a che fare con gli stadi, studi per gli stadi. E a un certo punto è squillato il telefono mentre moderavo l'incontro. Ho fatto finta che fosse una telefonata da Arcore. e il bello è che quando è finito l'incontro, tutti, a partire dal rettore tifosissimo del Milan, mi sono venuti incontro a chiedermi che novità c'erano queste per l'attesa. Beh, dove siamo? Siamo utilizzando, diciamo, un principio di filosofia orientale, dove ci sono dei problemi, ma potrebbero aprirsi delle opportunità. Noi siamo occidentali, quindi? Quindi il closing è stato rinviato, diciamo, per problemi legati al finanziamento, ma a quanto pare per eccesso di possibili finanziatori. Addirittura, ce ne sono troppi? Ce ne sono troppi, perché l'affare piace molto, in particolare oltre la muraglia. Sì. E quindi vanno messi insieme, vanno trovati particolari equilibri, perché la questione non è solo finanziaria ma anche politica quando si tratta di investimenti finanziati da una banca come CITIC, che è direttamente dipendente dal governo. Questo, insieme ad altre naturalmente tecnicalità, non è tutto qui il problema, però ha rallentato l'operazione. Mr. B, come avevamo detto, è arrivato a Milano, ha dato spiegazioni che Fininvest ritiene plausibili. Quindi ci sarà nei prossimi giorni un percorso delineato dai consulenti delle rispettive parti per definire, ho scritto in termini di una sorta di roadmap, per poi arrivare al closing. Volontariamente non è stata individuata una scadenza, ci potrebbero volere diverse settimane. Non è sine die, cioè, non è sine die. Abbiamo sempre sentito, cioè anche spiegato che Fininvest, che la proprietà non avrebbe accettato una data simile. Assolutamente, ipotetica, assolutamente. No? Non parliamo, ecco, di fine anno. Non parliamo di fine anno, parliamo di diverse settimane. Ho letto tra le 4 e le 6, insomma, oggi anche la Gazzetta ne scrive, più o meno potrebbe essere questo il timing, salvo improvvise accelerazioni, perché si potrebbe chiudere anche prima. Quello che è certo è che c'è la volontà delle parti di chiudere questo affare, perché lo si ritiene conveniente, insomma, cioè, sotto tutti i punti di vista. Non c'è nessun inghippo sotto, cioè non c'è nessuna, perché ci avevi parlato anche di alcuni finanziatori inizialmente presenti in accordate, che poi si erano spaventati per certe notizie di stampa, inchieste, cose varie. E altri ne stanno subentrando, per cui è cambiato un po' l'assetto di questa accordata, che è uno dei problemi che Mr. B dovrà chiarire. Lo abbiamo sempre detto, insomma, non abbiamo accolto, come dire, non abbiamo sposato noi l'accordata di Mr. B come quella ideale. Noi stiamo raccontando un percorso. Io ricordo che ho dato, per esempio, la notizia dell'offerta di Toir a maggio. Le trattative andavano avanti già da qualche mese, si è chiuso a novembre. Sì, no, ma anche quella abbiamo ricordato nei giorni scorsi come sia stata una vicenda particolarmente complicata. Quindi, se ti facessi la domanda secca, come lo studente incontrerai oggi, il Milan passerà a Mr. B? Mr. B chiuderà questo affare? La risposta è sì. Al 99%, come 99, dice Galliani. 99%. Al 99% sì, è fatta. Bisogna definire il percorso tecnico, certo. E soprattutto ricordiamoci che c'è questa scadenza poi della quotazione in borsa, dopo la quale messe sulla borsa determinate azioni, un pacchetto 12,5, 15%, questo va definito da entrambe le parti, poi dopo liberi tutti, e a quel punto, come più la volte maggioranza detto, potrebbe passare Mr. B, non spendendo un miliardo. Chiaro. Così come farebbe credere la quotazione, no? Chiaro. Complessiva, chiaro, del 100%. Chiaro. Senti, in un minuto ti faccio una domanda secca invece. Toir e questo disavanzo di 90 milioni che tu dici non è vero, è un'altra cifra, ma adesso non ve la dico. Beh, ha fatto bene, però le indiscrezioni sono uscite 5 giorni prima, se qualcuno all'Inter si poteva svegliare un po' prima per smentire. Vedremo, l'Inter parte, ricordiamo, da meno 100, se non aveva le coppe, bisognerà vedere nel rapporto equilibrio tra entrate e uscite. Toir ha detto abbiamo 10 milioni in più. C'erano, perché era l'accordo di Infront che garantiva 10 milioni in più rispetto al precedente contratto. Ha detto vendiamo tantissimi biglietti, ma questi vanno sul prossimo bilancio. Dove andrà per esempio la plusvalenza Kovacic. Su quest'anno non so come potremo andare, insomma, vedremo alla fine. Va bene, ma ne parleremo naturalmente di questo argomento che abbiamo solo accennato. Dunque avete capito, il Milan passerà a Mr. B al 99%, ci dice il professor Belinazzo, che ringrazio. Grazie. Buon viaggio verso Pisa. Goal Economy University Tour. Goal Economy University Tour. Lo promuoveremo. Ce lo siamo inventati ora. Grazie Marco. Noi ci fermiamo per il GR e torniamo subito dopo con altri colori, perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarvi. Grazie, buon appetito. Tutti convocati. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. sono Dario Ricci. Vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport. Ogni domenica alle 20.30, qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono le 15. Questa edizione di GR24 non va in onda perché è in corso un'assemblea della redazione. Il prossimo giornale radio alle 17. Si ricomincia! Tutti convocati. Dunque, eccoci tornati prima del solito. Vi avevo promesso una puntata piena di colori. Siamo partiti dal bianco-nero della Juventus al giallo-rosso della Roma, al rosso-nero del Milan di Mister B, con una pennellata di nero-azzurro. E adesso, insomma, abbiamo mancato l'appuntamento a Cersaie, alla Fiera di Bologna, per 24 ore. Potevamo trovarci faccia a faccia con il nero-verde del Sassuolo. Però, insomma, possiamo rimediare. Buon pomeriggio, Sergio Floccari. Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Sergio, come stai? Bene, bene, bene. Tra le bene. Ceramiche. Sì, siamo andati a fare un giro, bella esperienza. Allora, io trovo, credo che sia, l'ho sempre detto, l'ho detto più volte, ci sono le prove documentali, che Sergio Floccari sia uno degli attaccanti italiani più sottovalutati. Un giocatore che a me piace da morire. Grazie. No, prego, lo penso, l'ho detto in passato anche con altre magliette. Ascolta Sergio, una domanda facile, sì. Ma il presidente Giorgio Squinzi, ovviamente Radio di Confindustria, dobbiamo stare attenti, dobbiamo obbedire, vogliamo lo scudetto, vogliamo lo scudetto. Sì, sì, ho sì. letto. Dunque, che facciamo? Dunque, sì, il nostro presidente si sa che il nostro presidente è molto ambizioso, è chiaro che poi l'ambizione aiuta a centrare degli obiettivi importanti. Chiaro che in questo momento noi potremmo dire forse più un sogno, però se alla base poi c'è il lavoro e l'organizzazione, chiaro che questo atteggiamento ti aiuta per poter centrare obiettivi importanti. Noi, a mio avviso, dobbiamo continuare questo percorso di crescita intrapreso già da qualche anno e sicuramente questo ci potrà, come dire, avvantaggiare, però ripeto, noi adesso dobbiamo navigare a vista, guardare partita per partita e cercare di realizzare i nostri piccoli grandi sogni, però insomma con molta serenità. Sì, certo, poi l'appetito viene mangiando, possiamo dire un sacco di altre cose, questo è evidente, ma mi sembra la condizione migliore per correre, no? Cioè, ovviamente nessuno vi impone, credo, degli obiettivi specifici, o avete invece degli obiettivi segreti dentro al gruppo e dentro alla testa? No, guarda, noi abbiamo alle spalle una proprietà importante, quindi chiaro che da quel punto di vista siamo tra virgolette coperti, quindi questo già è un ottimo punto di partenza, come tu pensai, però è chiaro che anche l'ambiente è un ambiente che non ti dà grosse pressioni in questo senso, nel senso che è una realtà nuova e noi dobbiamo cercare di sfruttare un po' queste componenti qui, quindi cercare di sfruttare e ottimizzare al massimo quello che sarà questa esperienza e questo campionato, quindi l'approccio mentale nostro è questo. Chiaro che noi non sappiamo dove possiamo arrivare, però sicuramente l'obiettivo che ti posso dire è, rispetto agli altri anni, è stato sempre così, quello di continuare a migliorarci, ecco, perché secondo me l'anno scorso siamo migliorati in maniera molto sensibile, quindi direi che quest'anno insomma, l'augurio e l'obiettivo è quello di riuscire a migliorarsi altrettanto bene come abbiamo fatto l'anno scorso, anche se poi andando in su la qualità poi diventa sempre più difficile, no? Migliorarsi con la stessa proporzione, quindi però noi ce la mettiamo tutta. Io ho l'impressione che voi siate come gruppo quelli che stanno iniziando qualcosa di importante, no? Tutto considerato, i precursori di una storia che credo sarà importante per il calcio italiano. Senti, alcuni dicono che Di Francesco è ormai uno dei migliori allenatori della Serie A, forse sul podio. Altri dicono che il Sassuolo gioca il miglior calcio della Serie A, magari insieme al Torino. Tu cosa dici? Ma io dico che sicuramente noi, il nostro allenatore, delle idee ben precise di gioco. Il fatto di conoscerci da più tempo e conoscere l'allenatore ci aiuta a metterle poi in campo, no? Quindi da questo punto di vista si vede che siamo una squadra ben organizzata, lavoriamo molto bene e prepariamo le partite sul campo durante la settimana, quindi direi che il nostro gioco sicuramente è frutto del lavoro svolto durante la settimana, e quindi andando avanti sarà sempre più difficile perché poi gli avversari si conoscono sempre meglio. Quindi però sicuramente il nostro è frutto di un lavoro settimanale, ecco. Sì, ti chiedo ancora una cosa, Sergio, hai qualche idea sulle favorite per lo scudetto oltre al Sassuolo, naturalmente? Sai, quest'anno non è facile, nel senso che c'è un po', tra virgolette, di confusione. Le Milan e Inter sono rafforzate, però in questo momento, anche se l'Inter è partita molto bene, non vedo ancora un gioco ben consolidato, sì. E quindi da questo punto di vista veramente c'è molta incertezza. La Roma ha allestito una grande squadra, però come abbiamo visto sta passando un momento molto particolare. La Juve sulla carta è sempre la squadra più forte, però sai, il calcio non è una scienza esatta, quindi no. Bisogna vedere strada facendo. C'è molta incertezza, è anche forse bello così, perché insomma negli ultimi quattro anni si capiva da subito. Finalmente ci divertiamo, Infatti. Ci divertiamo. Sergio, grazie. So che hai vicino un altro dei segreti. Te lo passo subito. Grazie. Ciao Sergio Floccari. Ciao, un abbraccio anche a te. Uno dei segreti peggio custoditi del Sassuolo e della Serie A intera. Un segreto di Pulcinella, cioè non un segreto. La crescita di Nicola Sansone all'interno del Sassuolo e in questa squadra. Ciao Nick. Ciao, grazie. Piaciute le ceramiche anche a te come a Floccari? Sì, mi è piaciuto tantissimo, molto interessante. Sì, ci siamo mancati per 24 ore, ieri ero lì anch'io. Quindi peccato, ci sentiamo. Peccato, rimedieremo un'altra volta, Nicola. Assolutamente. Lo chiedo anche a te. Dicono che giocate il miglior calcio della Serie A, l'ho chiesto anche a Sergio. Molti dicono il Sassuolo in questo momento, preciso momento storico, gioca il miglior calcio della Serie A. Può starci, sì, perché il nostro mister è molto orientato offensivamente, quindi giochiamo un bel calcio. E tu stai crescendo in maniera molto rapida, stai facendo progressi pazzeschi. Sì, sto dando il 100% come al solito. Senti, la nazionale per te? Adesso è importante solo il Sassuolo e tutto il resto non conta. Beh, però ci pensi, dai, maglia azzurra, se ne è già parlato tanto di Sassuolo in nazionale. Certo, però al momento veramente penso solo al Sassuolo. Dimmi una cosa sulla Roma invece, che avete affrontato pareggiandola con molti rimpianti. Sì. Tu l'hai vista davvero così allo sbando? Hai visto una squadra con grandi difficoltà come sembra in questo momento? No, sinceramente no, però noi eravamo organizzatissimi, quindi abbiamo messi sotto e quindi abbiamo fatto un'ottima gara a Roma. L'ultima cosa, Nicola, presidente vuole lo scudetto, Giorgio Squinzi, presidente anche nostro di Confindustria, di questa radio, e quindi vuole lo scudetto, l'ho detto anche a Floccari, lo scudetto lo dobbiamo dare, prima o poi, no? Che dici? Il nostro presidente è molto ambizioso, sì. Però dobbiamo essere modesti, tranquilli, umili e continuare a lavorare bene. Grazie Nicola, un abbraccio. Arrivederci. Ciao Nicola Sansone. Dunque abbiamo sentito Sergio Floccari, Nicola Sansone. Più di così cosa volete? Cosa volete più di così da una puntata di Tutti Convocati? Adesso sapete cosa facciamo? Andiamo anche all'estero, in Spagna, perché ieri Real Madrid ha vinto doppietta di Cristiano Ronaldo, perché l'Atletico Madrid adesso sembra in crisi, ha perso in casa con il Benfica, perché il Siviglia è stato strapazzato, e questo ci fa molto piacere, dalla Juventus. Insomma, sentiamo cosa ha detto Benitez, allenatore del Real Madrid, a proposito di quello di cui parlavo prima, cioè quello che sta attraversando il fiume tra l'essere un eccellente giovane giocatore per arrivare ad essere un crack vero, un fuoriclasse vero del calcio europeo. Sentiamo Benitez su Morata. Morata è quindi già pronto, visto che lei è l'allenatore del Real Madrid, per il Real? Non lo so, credo che questa è una domanda per Allegri, se è pronto per giocare con la Juve o no. Oggi noi abbiamo una squadra forte, una squadra che lo ha fatto bene nella Champions e dobbiamo sfruttare questo momento. Comunque lei, insomma, condividerà il pensiero di Florentino Perez, se il presidente dice possiamo riprendere... Real riprende. Io credo che il presidente adesso sta parlando della squadra, di quello che abbiamo fatto oggi, è sicuro che non parla di un altro calciatore. Io ti giro, ti faccio un dribbling perché devo farlo. E io ovviamente mi faccio dribblare. Si è fatto dribblare, Dribbla benissimo anche Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ciao Phil. Buon pomeriggio. 501 323, cosa hanno in comune questi numeri? E 7, giochiamo all'otto, cosa hanno in comune questi numeri? I gol di Ronaldo, eh? Ieri sera assistete a un'impresa storica, no? 501 in carriera, 323 nel Real, come Raul, ma il tassametro corre, correrà ancora a lungo, credo. Sì, il tassametro corre, poi dopo il siparietto in zona mista, che ha accusato i giornalisti di che dice perché è apparso in zona mista, ovviamente, praticamente obbligato dal record, hanno dovuto portare di peso in zona mista. Mm. E lui aveva, gli hanno chiesto perché non vieni mai? Perché non mi fate domande intelligenti. Sembra deve aver sentito Allegri e Mancini battibeccare con le giornaliste delle varie emittenti italiane. Qua era la platea era di solo uomini, e quindi non c'è sessismo, non c'è machismo che tenga. E l'intellettuale Ronaldo non gradisce. Ma al di là dell'ex brocco Ronaldo, perché all'inizio dell'anno era diventato un brocco, no? Sì, beh, pare, no, adesso mi pare non ricordare. Ha fatto gol per tre partite. Quindi era in crisi nera. Ma è così, io sono d'accordo. Ma che sei d'accordo? Ma fai il bravo. Sono d'accordo su cosa? A queste medie, e deve segnare ogni partita, perché con il Real Madrid in Champions ha fatto 67 gol in 65 partite. Mm. Per cui se per caso non segna per tre partite, lo mandiamo in primavera, non so se c'è la primavera crisi, lì. È crisi nera per il portoghese, come per Mourinho, non... Esatto. Però anche con Real Madrid è ben sopra il gol di media, siamo a 323 in 308. Sì. Non puoi permetterti. All'inizio aveva fatto un gol in 9 partite. Ed era da vendere al miglior offerente. Era pronto per il Qatar, o il Catania. Il Catania. Ascolta, ma al di là di questo mostro che Real Madrid hai visto, Real Madrid che di gol comunque continua a prenderne pochissimi, perché l'offensivista Benitez è uno che è fortunato, diciamo. No, grandissimo. Appunto, lì la cosa più bella, infatti, la giornalista doveva stuzzicarlo, doveva dargli del difensivista perché lui va su tutte le furie. Però è la cosa che più gli tocca, diciamo, i nervi scoperti. Beh, 8 partite, ha preso gol solo in una partita, partita con l'Athletic Bilbao. Il resto 7 partite con senza incassare gol. Merito ovviamente un buon impianto difensivo, ha trovato sicuramente più equilibrio di quello che non era riuscito a trovare Ancelotti nella seconda parte del secondo anno. E poi c'è un bel portiere che alla fine aiuta. Keylor Navas spara. Avere un bel portiere aiuta a vivere meglio, a superare il logorio dello stress quotidiano, come il famoso amaro con il carciofo. Esatto, aveva una difesa un po' strana perché giocavano Carvajal, poi c'erano Varane, Nacho e Arbeloa a sinistra. Quindi insomma, è chiaro che il Malmo non è esattamente il Barcellona, però. Beh, oddio, di questi tempi la distanza magari non è neanche siderale, eh? Esatto, abbiamo visto sorprese piuttosto eclatanti, no? Soprattutto in casa nostra. Per cui, riesce a cambiare un po'. Poi, tra l'altro, c'è anche infortunati di livello, perché ieri mancavano Ramos, Pepe, Bale, James Rodriguez, quindi. Insomma, per ora mi sembra che Rafa stia facendo bene. La squadra non è che gli canta, sì. Costruisce tanto, Ronaldo è assatanato, il resto sabato ha fatto 0-0 col Malaga. Certo. Non è spettacolare. Senti, permettimi questa digressione, ma mi pare che la situazione infortunati, infermerie piene, non sia un'esclusiva tutta italiana, perché lì leggi Real, leggi Barcellona, hanno anche loro una corsia d'ospedale riempita. Guarda anche Siviglia, Siviglia. Banega, Pareja, Carrizo, Pitolo, Beto, ce n'hanno anche loro, 5-6 infortunati. E lì non allena Allegri in quei casi. Ma no, ma questa storia che gli infortuni sono colpa dell'allenatore a me mi sembra veramente una grossa stupidata a tutte le latitudini, insomma. Adesso il Barcellona, Messi tira, gli tira il ginocchio, cos'è? Colpa del mister. Rafinha entra in Angolan come un treno, gli salta il legamento, è colpa di Luis Enrique. No, però ci sono infortuni, quando sai c'è un'epidemia di infortuni muscolari, viene a domandarsi ma che preparazione hanno fatto questi, come si allenano questi, ci può essere, però, qualche connessione. Io non ho mai sposato questa, so che è popolare nella nostra categoria ed è anche giusto che lo sia, non dico che sia una stupidata, però voglio dire, può succedere, insomma, non lo so, insomma, sono macchine talmente precise, sofisticate, possono tracciare delle linee, delle connessioni magari con i viaggi transoceanici che devono farsi all'inizio, e questo è un comune denominatore per tutti i grandi club. Però ormai lo fanno tutti. Certo, no, ma quello che ti dico. E ormai tutti hanno un sacco di infortunati. Ma devono andare, ma ci mancherebbe altro. Sono lì, è lì che fanno, che riempiono il salvadanaio, ci mancherebbe altro. Cioè, le amichevole con la rappresentativa del Trentino ormai non stanno più. No, sono un po' in disuso. No, è rimasta la kermesse della Juventus a Villar Perosa, ma non c'è molto altro. No, e il resto sì, viaggiano, fanno fatica, sprecano energie. Però ti dico, guarda, anche gli infortuni del Barcellona, insomma, ecco, sono tre infortuni gravi e due sono casuali. Sì, Barcellona non sta benissimo, Filippo. Visto anche l'altra sera rimontare, per fortuna della Roma. Sì, però ha rimontato. Grazie Suarez, perché sennò per la Roma si faceva più dura di quanto già non sia. Sì, beh, adesso la Roma se la gioca col Bayer Leverkusen, che mi è piaciuto. Per un'ora ho visto una squadra molto interessante. Il primo tempo del Bayern al Camp Nou è da incorniciare, è un bellissimo primo tempo. La Roma deve stare attenta, insomma, hanno giocatori di grande qualità, sanno giocare a calcio, poi si sono persi. Ho scritto anche l'allenatore ci ha messo del suo con dei cambi che io sinceramente non ho capito. Però questa è una squadra, adesso la Roma ha due partite complicate. Soprattutto considerando la condizione attuale. Soprattutto adesso vediamo, vanno a Siviglia, un'altra squadra che sta malissimo sabato. Adesso abbiamo un weekend interessantissimo, perché c'è Siviglia Barcellona, poi c'è il derby qua a Madrid, l'Atletico che ha perso in casa. L'Atletico ha perso in casa con il Benfica, altra squadra che benissimo non sta. Avevi ragione sul fatto, ne parlavamo l'altro giorno, Siviglia, Juventus-Siviglia era comunque una partita tra due feriti. Sì, però il ferito Torino sicuramente ha molta più qualità del ferito andaluso, insomma. Io questo l'avevo visto, insomma, loro hanno perso con la Spalmas, perso col Celta, vinto in estremis con Rayo Vallecano, era una squadra che fatica a ritrovarsi, di più senza Llorente. Diventa dura, diventa durissima, no? Ma è evidente. L'Atletico Madrid invece che cos'ha? Allora, per me uno dei problemi è che hanno 5 attaccanti di ottimo livello e deve sceglierli, li continua a far ruotare, sembra il ruzzio brasiliano, dovrebbe essere al Porcon, capito? Porte girevoli davanti alle panchine. Esatto, continuano ad arrivare questi attaccanti, prima uno, poi l'altro. Poi si sta scoprendo quello che per me era un bluff abbastanza annunciato, poi magari sarò smentito da qui a 3 mesi, però Jackson Martinez non valeva tutti quei soldi, secondo me il Milan ha fatto molto bene a prendere banca invece di Jackson Martinez, e fa una gran fatica, e adesso va molto bene il ragazzo, il giovane di tutti, che Correa, questo argentino, praticamente il nuovo Agüero, però teoricamente era l'ultimo, adesso sembra che debba giocare, insomma c'è grande confusione davanti. Hanno perso Arda Turan, hanno sostituito con Oliver Torres, che è un ottimo prospetto, un giovane, ennesimo giovane promettente spagnolo, però ancora non ha le spalle abbastanza larghe, si è fatto male Koke, siamo lì in mezzo Thiago, ha reso tutto lui, non è di primo pelo. Ecco che la situazione è complessa. Ecco che le tessere del mosaico non si incastrano più tanto bene per il Cholo Simeone. Filippo, grazie. Dimmi. Ma voi? No, gli mancava anche. Guarda, hai nominato il Cholo. Secondo me anche lì è una chiave. Cholo, come ha perso un po' della sua grande scintilla, la grande fame che aveva. Capita, no, manca qualcosina. Vedremo, capita, però. Capita. Grazie, Phil. A presto. Ciao, Filippo. Ecco Pardo. Ciao, Pierluigi. Ciao, ragazzi. Scusate il ritardo, ma eravamo qui a presentare un'iniziativa a Falla Roma e Crystal Match Point, con un'associazione che si chiama Liberi Nantes, che è una squadra di rifugiati che gioca a Roma in un quartiere di Pietralata. Insomma, una bellissima iniziativa. Chiaramente, va agli aspetti anche commerciali dell'accordo tra le due società, ma insomma con questa parte del discorso che sta particolarmente a cuore, che è molto bella, insomma, mister Garcia, al quale il nostro amico Angelo Mangiante di Sky ha provato giustamente, legittimamente, a chiedere se scommetterebbe un euro sullo scudetto della Roma. Respinto con perdite. Con simpatia, nel senso che Garcia ha detto che in Francia, come in Italia, non può scommettere, ma magari un giorno scommetterà sui cavalli. Insomma. Grande rarità generale. Certo, sono ore pesanti qui, ovviamente, perché è chiaro che quello che è successo a Morisov non può lasciare indifferenti, e sapete che la città è particolarmente calda in questo momento, è particolarmente critica, soprattutto nei confronti dell'allenatore. Sì, ma prima parlavo con Luca Valdiserri di temi, io vado tre domande secche su temi romanisti. Lui non la vede così urgente la questione Garcia. Cioè dice Palermo, sì, a meno di cataclismi terrificanti, non sarà decisiva. Insomma, ha usato toni più morbidi rispetto a quelli che abbiamo usato noi ieri. Guarda, io penso questo, che bisogna fare, cioè la Roma deve fare una scelta, o in un senso o nell'altro. Nel senso, conoscendo un po' questa città e quanto questa città, partendo dal presupposto che poi è tutto fatto a fin di bene, con i migliori sentimenti possibili, nel senso che i tifosi della Roma sono tifosi particolarmente caldi, ovviamente innamorati, come tifosi parlano di Roma dalla mattina alla sera, sì, quindi assolutamente sì, sì, con le migliori intenzioni, però tutto questo porta a un dibattito continuo, permanente sulla squadra, e quindi nei momenti difficili, sull'allenatore, nei momenti difficili chiaramente questa cosa qui può ulteriormente accentuare l'attenzione. Io penso che o arriva un gesto forte nei confronti dei giocatori, nei confronti dell'ambiente, che dà ulteriore forza e legittima, è chiaro che non gli puoi ulteriormente allungare il contratto, perché tu gli hai allungato in maniera molto importante, però cioè, o gli viene ribadita in maniera molto forte, molto plateale, la fiducia, oppure si fa un'altra scelta. La cosa peggiore secondo me è rimanere sospesi in questa specie di limbo con un allenatore che rischia di passare per sopportato e non per supportato. E poi lì non hai neanche più presa sulla squadra. In queste situazioni l'esperienza insegna che poi non ha più presa sulla squadra. Poi è chiaro che non è un ambiente semplicissimo, un ambiente che dopo aver visto per esempio Spalletti e Ranieri arrivare a pochi centimetri dalle stelle e poi finire nella polvere, certamente. Quindi non è facile, come non è facile neanche ovviamente a Milano, per carità, però sono le grandi squadre, sono le leggi delle grandi squadre, e devi quindi in qualche modo confrontarti con questa realtà. Chiaro. Senti, parliamo con... abbiamo degli ascoltatori? Parliamo insieme a loro? Marco, provincia di Caserta, buongiorno. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, innanzitutto un applauso a Pardo. Sì. Perché lo trovo molto più... vero Pardo, lo sento per radio, la competenza c'è tutta, anziché in quella pagliacciata che fanno il lunedì sera a Tiki-Taka, in cui a parte un po' di fica c'è poco altro. Comunque, a proposito del Milan, oramai penso che sia evidente qual è la situazione. C'è imbarazzo da parte di tutti, da parte della società e dalla parte anche di voi addetti ai lavori, perché la situazione è stata platealmente smascherata, che in realtà questo giro di soldi non è altro che un... ormai il secondo di Pulcinella, che sono soldi di Berlusconi che fa rientrare. Marco, io ora, non lo so. Successo, Marco. Scusa. No, finisco, scusa. Finisco, no, e poi mi rispondi. Ora, detto ciò, questi naturalmente si vedono un poco osservati e non lo so, io non mi meraviglierei che saltasse tutto, perché non so, Laura, la veridicità di alcune cose, so soltanto che la magistratura comunque ha buttato un occhio e sarebbero grane a prescindere, quindi a me secondo me sono stati ingenui tutti in questa situazione. Sono cose che abbiamo letto sui giornali, e quindi è facile anche comprendere i suoi gusti in fatto di letture. Mi pare che la magistratura abbia smentito che ci siano questo tipo di attenzione, è stato smentito. E noi ci atteniamo come tipo di letture al Sole 24 Ore a Marco Berinazzo, che prima ci ha spiegato com'è la situazione, punto. Sì, io non ho certezza su questa questione qui, posso capire benissimo il punto di vista dell'ascoltatore, cioè che ci possono essere dei dubbi, ecco, però non ti direi nella situazione opposta, cioè non finirei per avere certezze, esatto, sul fatto che sia tutta una bufala. Ci può stare che ci siano dei dubbi, perché diciamo, più che altro non... italiani malfidati per definizione. Non mi butterei sul sospetto, ecco. No, sul... No, tutto può essere. Tutto può essere, però insomma, aspettiamo non molto. Ci atteniamo ai grossi. Ricordate la famosa vicenda di Parma, no? Con Manetti a un certo punto che arrivò, e lì io dissi una cosa, mi ricordo benissimo. Aspettiamo qualche giorno, tanto se partono i crow vuol dire che paga, se non partono i crow vuol dire non, che paga. Non paga. Qui okay. È molto semplice, cioè, se ci sarà il closing come sempre. Nel giro di un mese. Esatto, se ci sarà il closing vorrà dire che questo, hanno sbagliato tutti quelli che pensavano male, e se non ci sarà il closing vuol dire invece che qualcosa non ha funzionato, o magari semplicemente che a un certo punto in una trattativa tra due soggetti intervengono dei problemi e si cambia idea, non è che uno... Ma certo. Non penso, ci sono quelli che stanno per comprare la casa, cambiano idea, e non è che per forza questo debba significare chissà quale complotto interplanetario, mediatico. Esatto. Però poi detto questo posso capire che siccome il così non c'è stato, e magari ci si aspettava che fosse più veloce, ci possa essere... No, ma io capisco anche che nella cessione di una grande azienda come il Milan ci possono essere anche dei tempi che si dilatano, cioè non si tratta di vendere il chioschetto all'angolo, si tratta di vendere una grande azienda, e quindi i tempi tecnici possono anche essere diversi. Pierluigi, ti saluto, domani vado a Genova, vado al Salone Nautico. Sentiamo. Ci sentiremo. Vieni? Ci sentiamo. La mia vita è un po' tutta da decidere, però no, la mia vita lo dico in quest'aria, ma in realtà sono tutte cose devo capire se ce la faccio lei. Va bene, io se vieni sono felice, come tu sai. Ciao Pier, ciao. Ti vedo là. Ciao. Ciao. Chiudiamo qui, ragazzi. Beh, insomma, mi sembra che abbiamo dato. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Giovanni Melchiori in redazione, ciao a tutti. Sentiamo domani da Genova, ma comunque alle 14, dalle 14 alle 15.30. Vero, parto, lo sento per radio, la competenza c'è tutta, anziché in quella pagliacciata che fanno il lunedì sera a Tiki Taka, in cui a parte un po' di fica c'è poco altro.